Radio 24. Libera la voglia di fare. E denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Buongiorno, siamo qua, sono le 10:35. Sì. Torna a cuore denari. Pronti? Oggi è giovedì, è il giorno della nostra scuola di risparmio. Certo. Su che cosa ci farai lavorare? Guarda, i mercati finanziari ci offrono argomenti a profusione, tutto questo nervosismo di questi giorni che viene attribuito alla competizione elettorale americana, ma anche al referendum italiano, insomma, dove ci porterà, cosa vuol dire per il risparmio degli italiani, tutto questo fermento. Ci sarà anche il domandone. Altro che, e anticipo già Dai. Che è su un compleanno. Guarda, sì, esatto. Non il nostro, sia mai. Perché il nostro è a giugno. È a giugno per tutte e due, quindi. Quindi preparatevi, non dai nessun'altra indizio. Direi di no. Cioè, c'è una persona che siede su una poltrona importante da qualche anno, una persona molto legata ai mercati finanziari. Se leggete i giornali di oggi trovate anche questa notiziola qui. Voglio regalare, anzi voglio distribuire oggi, perché risponderà correttamente, la guida alla rottamazione delle cartelle esattoriali. È un abbinamento un po' ardito, ma ci voglio provare. Vediamo se c'è qualche appassionato di fisco e finanza che stamattina si cimenta nel domandone. Benissimo. Grazie. Allora, quindi pronti per la nostra scuola di risparmio a partire dalle 11:15, 11:20, ma anche noi andiamo a scuola in questa prima parte della trasmissione per raccontarvi un programma molto bello dedicato ai bambini della scuola primaria di Cornate d'Adda, che è in provincia di Monza e della Brianza. Sono bambini di 9-10 anni che sono stati scelti per un progetto pilota dell'Università Cattolica, un progetto unico in Italia. Questi bambini saranno aiutati ed educati a potenziare la loro autostima, a lavorare sull'autoefficacia, insomma orientati ad avere un atteggiamento positivo verso il futuro. In linea con noi abbiamo il professor Alessandro Antonietti, che è docente di psicologia all'Università Cattolica di Milano. Buongiorno professore, benvenuto a Cuore Denari. Buongiorno a voi, buongiorno agli ascoltatori. Professor Antonietti, voi lavorate sull'autostima dei bambini per prepararli ad affrontare le sfide della vita e dell'adolescenza, soprattutto, che spesso sono impegnative, difficili da superare. Chi ha figli lo sa bene, perché crescere è un'avventura straordinaria, ma anche faticosa. Ci vuole raccontare brevemente il vostro progetto? Che a me è piaciuto molto. Questo progetto parte da dei dati di una ricerca precedente che ha mostrato come progredire nella carriera scolastica i livelli di autostima e di autoefficacia, ovvero la convinzione di potercela fare nella vita, diminuiscono mano a mano che i ragazzi crescono, che è un po' un dato paradossale, perché la scuola dovrebbe attrezzare sempre di più i bambini e i ragazzi di competenze, e in realtà loro si percepiscono invece sempre più impreparati ad affrontare le sfide. Questo ha messo in luce che il tema dell'autostima, della rappresentazione che il ragazzo, il bambino ha di se stesso, è un tema centrale. E questo progetto quindi vuole cercare un po' di gettare le basi per una immagine di se stessi adeguata a partire dalla scuola primaria, soprattutto nel momento in cui c'è questo passaggio dalla scuola primaria alla scuola secondaria di primo grado. Che è un passaggio un po' difficile, come tutti i passaggi, professor Antonietti, anche quello delle medie al liceo, poi dal liceo all'università, tutti i momenti che i cambi sono impegnativi e possono creare un po' di disagio, possono far emergere delle fragilità, professore. Sì, sono cambiamenti che da una parte sono occasioni di crescita e di potenziamento delle proprie capacità. Per gli studenti un po' più vulnerabili, e soprattutto per quelli che non hanno un'immagine adeguata di se stesso, possono essere invece dei momenti in cui si entra in crisi. Per questo si è identificata questa fase nella carriera scolastica come una fase cruciale per lavorare in un'ottica di prevenzione. E il progetto è stato costruito da una psicologa junior, che adesso sta completando il proprio percorso laureandosi con una laurea magistrale, Chiara Grecchi, ha come obiettivo fondamentalmente quello di portare i bambini a sperimentarsi in alcune situazioni un po' nuove, impreviste, e penso anche divertenti, e poi di riflettere su come si sono comportati in queste situazioni e venire a riconoscere quali sono state le capacità che hanno messo in gioco e quali le difficoltà e i limiti che hanno incontrato. Professore, dalla scuola andiamo in famiglia. Quali sono gli errori che i genitori, inconsapevolmente naturalmente, commettono e che possono in qualche modo mettere in crisi, minare l'autostima dei loro bambini, creando quindi dei presupposti, delle ferite, delle zone di fragilità? Ah, penso uno degli errori più frequenti, nel quale incorriamo un po' involontariamente tutti, è quello di valutare la persona anziché il comportamento o l'azione. Più molte volte i rimproveri o i commenti negativi sono rivolti al soggetto, tu non sei stato capace di, quindi così rimarcando un limite della persona anziché invece qualificare l'azione. Certo, si mettono delle etichette, sei il solito sbadato, sei il solito ritardatario, se non capisci, sei e poi alla fine etichetta dopo etichetta ci si sente davvero così. Quindi è proprio questa direzione in cui si commettono gli errori, per cui poi si induce il bambino a costruirsi un'immagine di sé svalorizzata e svalorizzante, mentre giustamente vanno rimarcati i limiti e i difetti nei comportamenti, ma il comportamento è modificabile, la persona invece è meno malleabile e può indurre l'idea che non si posseggono certe risorse, certe capacità e quindi non ci sarà mai. Potrebbe essere d'aiuto ripensare alle cose che da bambini ci risultavano dolorose o fastidiose, i commenti dei nostri genitori o le sgridate o quant'altro, e che crescendo spesso ci dimentichiamo di quando eravamo piccoli. Professore, l'autostima quindi si può e si deve coltivare anche in famiglia. Ci impresta la sua esperienza, ci dia qualche strumento, qualche consiglio, anzi, dato che giovedì a scuola, a Cuore dei Nari si va a scuola, ci dia pure proprio dei compiti, noi siamo pronti. Beh, direi che più che immaginare proprio delle attività da svolgere specificamente in famiglia, forse è il modo con cui in famiglia si interagisce con i bambini che può alimentare e supportare un'adeguata visione di se stessi. Ad esempio il rimarcare quali erano le possibilità alternative che si avevano a disposizione in quella situazione. Si è comportato in una certa maniera, non si è raggiunto l'obiettivo, ma che cosa potevi fare in alternativa? Motivare sempre i giudizi che si emettono rispetto ai comportamenti. Mi faccia un esempio con una frase, così io capisco meglio. Sì, si parla di come è andata a scuola e il bambino riferisce di un litigio con un compagno che magari l'ha visto uscirne malconcio. Allora, anziché etichettare subito il comportamento, dire ma che alternative c'erano, cosa si poteva fare diversamente, si poteva evitare, potevi comportarti diversamente. Penso che aprire lo spettro delle possibilità aiuti un bambino a riconoscere che ha delle risorse che in quell'occasione, in quell'evento non ha messo in gioco, ma in futuro potrebbe mettere in gioco. Lavorando sull'autostima dei nostri bambini, lavoriamo anche sulla nostra, professore, è una sorta di specchio. Sì, perché in qualche maniera i bambini ci mettono anche in luce, in una terza persona, quali sono poi i nostri atteggiamenti, che molte volte assimilano i nostri modi di comportarci. Per cui può essere anche un'occasione per riflettere sui nostri atteggiamenti, considerare gli errori che commettono i bambini. Professore, e quindi anche, mi perdoni? E quindi anche poi riconoscere le potenzialità nostre, anche le alternative che noi abbiamo a disposizione. Professore, prima di salutarci e dare la linea alle informazioni sul traffico, una richiesta che arriva da Lucia. Ci può precisare e spiegare la differenza tra autostima e invece le persone narcise? Ci scrive Lucia. L'autostima ha a che fare con l'immagine che si ha di se stessi e deve essere sempre in qualche maniera commisurata alle reali capacità e limiti che la persona ha. Una visione narcisistica invece tende a cancellare i difetti, i limiti e a tenere presente soltanto gli aspetti positivi, talvolta anche enfatizzandoli eccessivamente. Grazie professore, ci tenga informate sul progetto e ritorneremo sicuramente a parlarne, a seguire un po' i risultati che state volentieri raggiungendo. Complimenti, noi andiamo a sentire le informazioni il sul traffico e ritorniamo a parlare sempre di autostima. La nostra autostima ha tanti nemici, uno di questi è proprio la nostra immagine, oppure l'immagine che vediamo negli occhi degli altri, e chi ha una malattia della pelle lo sa bene, ne parliamo tra poco. Stufe, caldaie, termorossi, una promessa di calore per un amore di casa. Vi presenta Cuore e denari. Due cieli diversi non si incontrano mai, e questo io l'ho capito sulla mia pelle. L'autostima, ne abbiamo parlato nella prima parte della trasmissione per raccontarvi di un bel progetto rivolto ai bambini delle scuole elementari. Si previene la fragilità, si investe sull'autostima, d'altronde va coltivata, protetta con cura dai tanti fattori che possono incrinarla o mandarla in crisi. Uno di questi è sicuramente il nostro aspetto, ma ancora di più è l'immagine di noi che ci sembra di vedere nello sguardo degli altri, che può metterci a disagio, farci sentire inadeguati, non all'altezza. Questa è una sensazione che conoscono bene le persone che convivono con una malattia della pelle. Sono malattie che più di altre portano con sé pregiudizi millenari, primo fra tutti la possibile contagiosità delle lesioni. E Deborah, uno vede una persona che ha delle lesioni strane sulla pelle, dici che stammi lontano. Che succede, esatto. Ma. E queste quindi, le lesioni diventano un fattore di allontanamento, di distanza, di separazione dagli altri. La psoriasi, per esempio, di cui parliamo oggi, ma non solo, parleremo anche di rosacea, di dermatite atopica, di dermatite seborroica. La psoriasi ha cause genetiche autoimmuni, non è assolutamente contagiosa, nonostante ciò chi ne soffre si sente ancora discriminato, allontanato, rifiutato e pensa che le lesioni abbiano influenzato negativamente la vita, le relazioni personali, amicali e lavorative. La situazione è molto ben descritta da un'indagine, Claire About Psoriasis, condotta in 31 paesi da GFK Eurisco con un finanziamento di Novartis. Eppure i segni di questa malattia, che come abbiamo detto e come sappiamo ha risonanze psicologiche così importanti oltre che fisiche, possono essere attenuati o cancellati. E questa è una buona notizia, ne parliamo col professor Giampiero Girolomoni, che è in linea con noi, direttore della dermatologia dell'Università di Verona. Professore, buongiorno e bentornato. Grazie, buongiorno, buongiorno a tutti. Professore, la psoriasi è una malattia che possiamo dire segna la pelle e il cuore, quelle chiazze rosse in rilievo, ricoperte da questo strato bianco argenteo, sono fonte di imbarazzo e quindi anche causa di umiliazione e discriminazione. I pazienti glielo raccontano, professore? Certo, questo capita un po' con diverse malattie della pelle, soprattutto quando colpiscono le zone visibili. La psoriasi in realtà non colpisce le zone visibili come il viso spesso, però segna molto la vita dei pazienti, soprattutto quando sono pacienti giovani, sono ai 25-30 anni, che iniziano, diciamo, una vita di relazione più intensa. Certo. Professore, oggi, ma alla luce anche dei numerosi studi, si può dire che la psoriasi sia una malattia poligenica, termine che sta a indicare che sono coinvolti più geni, ma sappiamo anche che coinvolge più organi, per questo avviene, si legge anche su internet, multiorgano. Ci dà un rapido inquadramento della situazione in modo chiaro? Certo, la psoriasi primariamente è una malattia esclusivamente della pelle, in un terzo dei casi però può associarsi a un'artrite, che spesso viene dopo la malattia della pelle, viene circa mediamente 10 anni dopo. Quando la psoriasi è grave, interessa vaste aree di superficie corporea, si dice più del 10% della superficie corporea, ha delle implicazioni sistemiche. Cioè? Nel senso che rappresenta un fattore di rischio metabolico e cardiovascolare. Quindi i pazienti che hanno una psoriasi grave hanno un maggior rischio di sviluppare diabete, ipertensione, steatosi epatica e di avere malattie cardiovascolari. È un fattore di rischio cardiovascolare, diventa. E questo quindi ne teniamo ben conto quando approcciamo i nostri casi, ed è un motivo ulteriore, diciamo, di curare a modo la psoriasi grave, ecco. Professore, la psoriasi Lei ha sottolineato che può colpire le persone giovani, ma può insorgere all'improvviso. E allora, se lei è d'accordo, io parlerei volentieri di quelli che vengono chiamati fattori scatenanti. In pratica, vorrei parlare di quegli eventi che possono provocare la comparsa di una malattia che è già presente in uno stato di latenza. Esatto. Quali sono? I fattori principali sono gli eventi di vita stressanti. Sì. Esistono molti studi a questo proposito, anche italiani, degli anni anche passati. Eventi di vita stressanti vuol dire dei lutti, degli incidenti, dei lutti di qualsiasi tipo, separazioni. Quindi eventi di vita stressanti di un certo rilievo, non l'evento, diciamo, lo stress minimo che uno può avere quotidianamente per cose minori. Poi ci sono le infezioni, soprattutto le infezioni da streptococco, ma anche infezioni virali. Posso anche la stessa varicella, per esempio nei bambini, l'infezione induce un'attivazione di tutto il sistema immunitario e le infezioni sono spesso eventi scatenanti di molte malattie autoimmunitarie, inclusa la psoriasi. Sì. Poi ci sono alcuni farmaci. Quali sono? I farmaci sono i sali di litio, sono farmaci che si usano nelle malattie depressive, diciamo, gli interferoni. E in genere tutti i farmaci immunostimolanti, che sono sostanzialmente gli stessi interferoni o farmaci che si usano in oncologia per migliorare la difesa immunitaria contro i tumori. Meno evidenza, ci sono alcune indicazioni, ma l'evidenza non è così potente, diciamo, riguardo i beta bloccanti e gli antimalarici. I beta bloccanti si usano per i pazienti con l'ipertensione arteriosa. Certo. C'è qualche evidenza, ma non è così, diciamo, forte, consolidata. Professore, ad oggi non esiste una cura, però la ricerca ha sviluppato dei trattamenti che permettono di curare questa malattia in modo molto efficace, molto più di prima almeno, fino a cancellarla completamente dalla pelle. E questo nonostante il comprensibile scetticismo dei pazienti. Andiamo alle novità, professore, ma prima ci sono delle novità che riguardano le forme più severe, quelle che non hanno ottenuto benefici dai trattamenti tradizionali, ma a proposito di scetticismo abbiamo Alberto che è in linea con noi da Milano, 800 24 00 24. Alberto, benvenuto, buongiorno. Buongiorno a tutti. Volevo dare il mio piccolo contributo. Grazie. Perché ho 53 anni, all'età di 40 più o meno mi sono venute delle macchie sulla fronte e sul petto. L'ho fatto vedere dopo aver passato tutti, il medico mi manda dal dermatologo mi fa fare degli esami presso cliniche universitarie, due di Milano, quindi ho provato prima in una e poi nell'altra, mi fanno il prelievo, fanno le analisi di laboratorio, mi danno delle pomate che sono, a parte il costoso, ma è quello relativo, totalmente inutili, cioè proprio nulla. Peraltro poi avevo avuto un'esperienza, sono andato in Cina per lavoro, ero là e ho provato ad andare anche a provare la medicina cinese, anche lì ho fallito completamente, che ho veramente abbandonato, mi tengo le mie macchie sulla pelle, sono sfiduciato completamente, perché più che far perdere tempo e denaro, non danno tutte risposte vaghe, erano identiche le diagnosi, una volta che mi hanno fatto questi prelievi dicono ma può trattarsi di questo, può trattarsi di quello, cioè pago completamente, però nel frattempo ho perso tempo, soldi, peraltro io non soffro, sono una persona molto serena, benestante, non ho problemi di stress, non so, mi sono arrivate, fine, me le tengo. Grazie Alberto. Prego. Professor Girolomoni, sicuramente la storia di Alberto è una storia che lei conosce bene, certo. Perché ci sono tante persone che, oltre a lamentare, ma anche le ricerche lo dimostrano, di avere una diagnosi tardiva, di passare da un dermatologo all'altro, poi fanno dei trattamenti ma non vedono nulla, li abbandonano, e quindi che cosa succede? Quali indicazioni possiamo dare ad Alberto, che è molto sfiduciato e dice va bene, me le tengo, e cosa succede? È una situazione non rara. Quella abbiamo un minuto, ma poi riprendiamo. In un minuto. Velocissimo. La psoriasi è eterogenea, è variabile da paziente a paziente, come sono le malattie poligeniche multifattoriali. Non tutte le cure funzionano in tutti i pazienti. Però il paziente in questione è stato un pochino sfortunato, diciamo, perché chiaramente le cure sono variabili a seconda della gravità della malattia. le cure sistemiche, non pomate, diciamo, le cure per via orale o per via iniettiva, si fanno per le forme moderate gravi. Per le forme più lievi si usano generalmente i farmaci topici o la fototerapia. Il paziente ha perso tempo perché non ha trovato il medico giusto che lo curi in maniera adeguata. Questo capita con altre malattie, anche non solo con la psoriasi. Ma se non si cura la psoriasi, peggiore, evolve? Mi dica solo sì o no e dopo il GR ne parliamo. È variabile. Variabile. State con noi, parleremo anche di altre novità, rosacea, dermatite, parliamo dei segni sulla pelle che a volte lasciano dei segni anche nel nostro cuore. GR, torniamo dopo insieme. Il segnale orario vi è offerto da Stufe e Caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Le firme più autorevoli del Sole 24 Ore aprono le porte al mondo dell'attualità politica ed economica nel primo editoriale cross-mediale di informazione. Dal lunedì al venerdì alle 9 e alle 17 su Radio 24 e su RDS e in video su radio24.it e su rds.it. Cuore e denari. Il tuo è un rosso. Come anticipato, questa prima parte di Cuore Denari è dedicata alle novità nel trattamento di alcune malattie della pelle, in particolare della psoriasi, e parleremo anche di rosacea e di dermatite. Ci sono novità anche su questi fronti. Professor Girolomoni in linea con noi, direttore della dermatologia all'Università di Verona. Professore, dobbiamo sfruttare al massimo il tempo che certo. Abbiamo a disposizione. Molte telefonate stanno arrivando all'800 24 00 24. Abbiamo pensato di organizzarci in questo modo: mandateci un'email e chiederemo al professor Girolomoni di darvi una risposta, così che a beneficio di tutti gli ascoltatori possiamo parlare delle novità, di fare qualche straordinario radiofonico, ecco. Povero prof. Professore, allora abbiamo sentito la telefonata di Alberto, molto interessante, che fotografa una situazione che non è certo bella, e cioè una persona che, pur ricevendo una diagnosi, anche se dopo un po' di tempo, passando da uno specialista all'altro, prova questi trattamenti topici, insomma la cremina, non vede nessun risultato. Certo. E cosa fa? Smette, perché a buttare soldi e tempo e a non vedere risultati si abbandona un po' l'idea. Lei invece ha sottolineato, sicuramente non è stato fortunato. Come bisogna fare per essere fortunati e trovare lo specialista che ci prende in carico e ci cura? La cosa complessa è che esistono novità molto importanti, efficaci, sicure per la cura della psoriasi grave. Per le forme moderate lievi, in cui le pomate non sono sufficienti, ma magari la terapia sistemica è un po' eccessiva, esiste un'area di incertezza e di complessità che va valutata caso per caso. Questo volevo dare in considerazione. Secondo, le pomate sono quasi, quelle efficaci sono quasi tutte mutuabili. Direi anzi, sono tutte mutuabili, quindi sono tutte dispensate dal Servizio Sanitario Nazionale. Anche i preparati topici. Esistono anche novità nei preparati topici, esistono novità che verranno introdotte a breve, credo, al primi del 2017, di nuovi prodotti fatti di una formulazione più consona, più efficace, più facile da applicare sulla pelle, ecco, che non unge, che è più migliore. Ma i risultati? Capisco che ciascun paziente ha la sua psoriasi, esatto. E c'è una risposta differente. Ma stando ai trattamenti topici, dopo quanto tempo si vedono i risultati? Perché con i trattamenti topici ci vogliono almeno 15-20 giorni. Ecco. Quindi ci vuole molta pazienza, molta costanza da parte del paziente, ci vuole da parte del medico una spiegazione chiara di come vanno applicate le pomate, perché le pomate non sono facili da applicare, cioè non è che non sono facili, ma vanno applicate in un certo modo, cioè? Come quantità, devono essere messe in una quantità adeguata, non troppo poco, spesso i pazienti ne mettono troppo poca. E la quantità ideale, ad esempio? La quantità ideale è la quantità di pomata che c'è su un polpastrello, sì? Tutta l'ultima falange, vale per una superficie corrispondente a un palmo di mano. Ok, almeno abbiamo visualizzato un po' una misura. Le medicazioni andrebbero coperte con la medicazione, perlomeno durante la notte, in modo da fare in modo che la pomata resta lì e venga assorbita. Vanno spalmate senza che siano fatte massaggiare per favorire l'assorbimento. L'assorbimento è spontaneo dei principi attivi, diciamo. e vanno applicate regolarmente, quindi non ecco. Facendo un giorno sì. Ci ha dato già anche lei una piccola scuola, poi Deborah andrà con la scuola di risparmio, no, per come utilizzare, un po' come il consulente, anche bisogna trovare quello giusto. Esatto. La stessa cosa. Perfettamente proprio. Senta professore, invece sappiamo che le novità più interessanti riguardano le forme più severe, quelle che non hanno ottenuto certo. benefici dai trattamenti tradizionali, parliamo dei biologici, però anche in occasione della giornata si è sottolineato che l'accesso a queste terapie, che sono rimborsate dal Servizio Sanitario Nazionale per i pazienti gravi, non sono adeguatamente garantiti ovunque a tutti coloro che ne avrebbero bisogno, anche se tutti avrebbero diritto ad avere una pelle libera dalle lesioni. Come la mettiamo? Mettiamo che è un po' così, perché la situazione, le variabili riguardano la capacità, la predisposizione del medico a trattare questi pazienti, dall'altra parte la capacità e la predisposizione del paziente ad accettare determinate cure. Da questo deriva una grande variabilità di trattamento. Non è tanto una questione economica, in parte c'è anche un fondo di problema economico, perché sono cure costose, quindi non tutti le ASL, gli ospedali hanno i budget adeguati, le dermatologie, per coprire questi costi. Però esiste di fondo una variabilità nel medico e una variabilità nel paziente nel trovarsi per fare la cura ideale. È difficile trovare, questo secondo me vale per tante malattie, non soltanto per la psoriasi, perché ciascun malato deve trovare un po' il medico che gli si confà, anche se esistono linee guida internazionali, linee guida nazionali, abbiamo fatto recentemente, su come si cura la psoriasi per fare dei trattamenti standard, diciamo. Certo. Torneremo a parlarne, perché il tema è di grande interesse, anche a vedere, considerare il numero delle telefonate sì. che stanno arrivando. Scriveteci un'email. 5 minuti ci restano, poco meno di 5 minuti, per chiederle, professor Girolomoni, sì. se ci sono delle novità per la rosacea, la caratteristica principale di questa malattia che infiamma il viso, è una malattia più femminile, donne, quindi infatti in età fertile e menopausa. Sì. Solitamente con la pelle chiara, i capelli rossi o biondi, gli occhi azzurri certo. o insomma chiari, e che segna il viso con questo caratteristico rossore. Ci sono delle novità per i certo, esistono novità. La rosacea è una malattia legata al fatto che la pelle produce un eccesso di sostanze antimicrobiche. Quindi è una risposta esagerata della pelle in termini di vasodilatazione, in termini di infiammazione. Sì. Ha un eccesso di produzione di sostanze antimicrobiche che si chiamano peptidi antimicrobici, catelecidine. Detto questo, una come facciamo molto... a farla star tranquilla, insomma, esatto. a nelle farla forme, lavorare un po' meno? Nelle forme eritemato teleangiectatiche cosiddette, dove c'è soltanto la rosamina. Che cosa mi ha detto? Eritemato teleangiectatiche, che vuol dire la rosacea, la cuprosi grave. Sì. Chiamiamola cuprosi. Va bene, così io capisco, grazie. Okay. Si chiama eritemato teleangiectatica, ma è la forma più semplice di rosacea, la forma arrossata, spesso associata a sensazioni di calore, a vampate di calore, sì. che peggiora andando dal freddo al caldo. Quelle forme lì, la novità della terapia è una sostanza che si chiama brominidina, che è una gel che si applica la mattina e che ti dà una vasocostrizione sulla pelle, esclusiva vasocostrizione, che quindi ritorna alla pelle tendenzialmente bianca. Quindi fantastico. Toglie. Allora, Deborah, intanto che lei diceva quelle parolacce sì. lì delle, che non abbiamo più, sì, che sembra Debola la malelingua. Ecco, guardava la una foto. Guardavo lo speciale che pubblica oggi il Sole 24 Ore, speciale elezioni americane, l'impatto su economia e mercati, uno speciale su cui campeggiano le due foto di Hillary Clinton e Donald Trump, e Trump c'ha una bruttissima pelle, professore. Sì. Secondo dobbiamo me. Farlo Clinton, venire a Verona, un po' perché Clinton, anche un po' Bill Clinton c'ha una rosacea. Ah, pure lui? Sì, se lo guarda bene c'è una cuprosi, dopo se lo maschera con dei fondotinta. Anche se ma maschio. La cuprosi è la rosacea e colpisce il 70% dei celti, degli individui di origine celtica, quindi è estremamente comune. In Irlanda, Inghilterra, e ce l'hanno molti personaggi famosi. Pensavo che quella di Trump fosse molto delicata, perché colui perché ha un colorito di capelli biondo rosso, una pelle tendenzialmente così delicata, reattiva. Invece la signora Clinton mi sembra una pelle curata. La signora di 70 anni, assolutamente, anzi ben tenuta, sì, ha le sue rughette però. Senta, come pelle la differenza non è tanta tra i due. Adesso no, ma no. Ma cosa hanno la pelle dura, la bella scorza entrambi, dura, esatto. E questo però è un altro ragionamento. Senta, professore, deve tornare da noi. Perché... Quindi nelle forme, così c'è la brominidina topica, che è un'azione... Brominidina topica, questo è il nome scientifico della sostanza, diciamo. E ha un'azione temporanea, l'effetto dura 12 ore, poi tocca replicarlo la mattina dopo. Però è una cosa nuova, perché fino adesso non c'era una cosa simile. Quindi 12 ore, un po' come la carrozza di Cenerentola, no? Esatto. Dopo un po' puff, bisogna ridarlo, ma uno può utilizzarla anche per periodi lunghi o solamente... Certo. Ecco. La può usare per mesi o anni, mesi. Ci sono evidenze, studi clinici fatti per lunghissimo tempo. Professore, sulla dermatite la invito per la prossima volta, perché comunque dermatite, poi ce ne sono bisogno di diversi tempi, eccetera. Intanto su psoriasi e rosacea abbiamo capito, e possiamo dare anche dei suggerimenti a Donald, al signor Trump, perché se lo chiami Donald giusto, vuol dire c'è che tutta per la carità, polemica, il dibattito, signor per Donald Trump, signora Hillary Clinton, professor Giampiero Girolomoni, alla prossima, grazie. Per la sua chiarezza e per averci aggiornato. Grazie molto. Buona giornata. Allora, li abbiamo evocati proprio un attimo fa e in questi giorni si è riacceso un certo nervosismo in borsa che viene largamente attribuito alle così schermaglie fra i due candidati alle presidenziali americane, ma il nervosismo di borsa viene largamente attribuito alle attese per il risultato elettorale statunitense, visto che a quanto pare non è affatto scontato, la vigilia è molto controversa, ma anche le attese per il referendum italiano non sono da meno, danno il loro contributo ad agitare ulteriormente le acque, basti vedere tutto il dibattito che è partito in questi giorni sull'opportunità o meno di rinviare a dopo il 4 dicembre appunto il voto, peraltro una richiesta fatta anche dai sindaci delle aree terremotate, una circostanza che solo ad ipotizzarla ha fatto comunque impennare lo spread oltre i 160 punti base. Insomma, ogni notizia è buona per mettere un po' di pepe nelle scelte degli investitori, ma ogni scusa è buona anche per tornare sui banchi della nostra scuola di risparmio. Investire informati. Lo spread, vediamo quello che accadrà sullo spread. No, non la preoccupa comunque. Io penso che l'Italia abbia la possibilità di entrare nel futuro ed è il motivo per il quale secondo me questa è una grande occasione, perché poi sul dibattito sul governo che verrà si fa con le elezioni, non col referendum. Cioè alla fine chi prende, chi vota, chi sceglie, si fa con le elezioni. E di conseguenza è evidente che il mondo si aspetta che l'Italia scelga il futuro, ma che cosa si aspetta il mondo è meno importante di che cosa decideranno i cittadini. Quindi, senta, pieno rispetto per la gente italiana che voterà e deciderà. Un Matteo Renzi a 360 gradi ieri ai nostri microfoni, ai microfoni di Effetto Giorno di Simone Spezia. Insomma, il tema lo avete sentito con la declinazione che ha scelto il Premier: mercati e variabile politica. Le prossime settimane saranno caratterizzate, come vi dicevo, dalle attese, dalla reazione agli appuntamenti elettorali in programma, presidenziali americane e referendum italiano, questi due dei tanti argomenti finanziari che campeggiano in questi giorni sui giornali, che leggiamo questa mattina con Andrea Guazzi, responsabile della divisione Wealth Management di Banca Mediolanum. Ben trovato, buongiorno. Grazie e complimenti per la trasmissione. Grazie a lei. Hai visto che ci fanno anche i complimenti questi oggi? Non richiesti, ma ben accolti. Grazie. Allora, cosa dobbiamo aspettarci e quanto un risparmiatore deve guardare a questi eventi, dottor Guazzi? Insomma, perché li stiamo un po' stressando, i nostri ascoltatori / risparmiatori / cittadini, su questi argomenti, come se dalle sorti del voto americano dipendesse chissà quale scenario finanziario. Un po' di preoccupazione c'è. Sì, in effetti il risparmiatore è molto preso dalle notizie giornalistiche, per cui abbiamo queste due date a brevissimo, l'8 novembre e il 4 dicembre, l'8 novembre le elezioni americane e il 4 dicembre. L'eventuale referendum, dato che c'è una discussione in corso.